Carlo Giuliani viene ucciso con un colpo d'arma da fuoco in pieno viso in piazza Rimondi. Ha 23 anni, chi ha sparato ne ha 20, l'ausiliario dei carabinieri Mario Placarda. Legittima difesa, sostiene l'arma. La camionetta bloccata ad un angolo della piazza era aggredita dai manifestanti. La canica ebbe paura, sparò due colpi in aria. Un proiettile fu deviato, Carlo Giuliani fu colpito a morte per fatalità. Ma non è così. Sì. Carlo avesse avuto alle spalle una famiglia povera, una famiglia diseredata, una famiglia analfabeta, non se ne parlerebbe più. Allora vuol dire che siamo ancora lontani da un paese corretto, civile, semplicemente normale.